È possibile che oggi uno storico della scienza avverta il disagio di trovarsi in un'isola, lontano dagli scienziati militanti, per i quali la storia della loro disciplina è al massimo oggetto di curiosità o attività pedagogica da tempo libero, ma lontano anche dagli storici, tenuti a distanza a loro volta dai complessi problemi tecnici che egli è costretto ad affrontare. Lo storico della scienza, in senso professionale, è una figura abbastanza recente. Secondo Thomas Kuhn, solo nel nostro secolo, per molteplici ragioni, gli storici della scienza si sono resi conto di avere a che fare con qualcosa di più complesso della sequenza cronologica dell'accumulazione di risultati positivi incorporati nell'edificio attuale delle varie scienze. Prima, tra 700 e 800, a scrivere storia delle scienze erano o scienziati o filosofi. In entrambi i casi lo scopo era chiarire e comprendere i metodi e i concetti scientifici in vigore nella scienza contemporanea, mostrandone l'evoluzione. Ciò conduceva a espellere fuori dalla storia della scienza tutto ciò che la scienza contemporanea considerava errato o irrilevante. Ma se guardiamo alla vicenda della storiografia sulle scienze matematiche e naturali dell'antichità, forse la periodizzazione di Kuhn, che assume osservatorio privilegiato il problema storiografico della nascita della scienza moderna, deve essere modificato. La ragione è che in questo caso, tra scienziati e filosofi, si è insinuato un intruso, il filologo. Ciò naturalmente ha avuto luogo nella cultura tedesca sin dagli inizi dell'Ottocento. Il semplice programma di assegnare agli scienziati il compito di scrivere la storia della propria disciplina a partire dall'antichità, qual è testimoniato per esempio ancora dalla gottinghese Geschichte der Kunst und Wissenschaften, che comparve su iniziativa di Eichhorn e a cura di vari scienziati a partire dagli ultimi decenni del Settecento, cominciò da allora a complicarsi. La mia intenzione primitiva era di occuparmi a questo punto di Böck, Usener e Diels. Ovviamente il programma era un po' troppa carne al fuoco e mi dovrò limitare soltanto a Böck. Ritengo però che Böck sia l'esponente più significativo di questo mutamento. Il punto di partenza sembra avere scarsi rapporti con la storia della scienza ed è la riscoperta di Platone. Nel 1808 Böck pubblicò sulla Jenaische Allgemeine Literaturzeitung una recensione all'edizione di Dialoghi platonici curata dall'amico Heindorf. Qui egli enunciava un principio. Una compiuta edizione di Platone deve occuparsi non solo di critica, di lingua e di informazioni storico-antiquarie, ma anche della forma degli scritti platonici e della dottrina contenuta in essi. È ovvia qui l'allusione, soprattutto per il riferimento alla forma, al contributo di Schleiermacher, la cui traduzione platonica era apparsa nel 1804, quando Böck studiava ad Halle sotto la guida di Wolf, ma entrava in contatto anche con Schleiermacher. Ma per noi la cosa più importante è il problema della dottrina reperibile nei dialoghi platonici. Cioè, a quale Platone pensava Böck in primo luogo, quando insisteva sulla necessità di comprenderne la dottrina. Sempre nel 1808, sulla stessa rivista, Böck recensiva un breve lavoro del filosofo Herbart, dal titolo De Platonici Systematis Fundamento Commentatio, uscito nel 5. Per Herbart il nucleo fondamentale della filosofia platonica era l'opposizione tra gli oggetti stabili della scienza e gli oggetti in divenire, esclusi da essa. I primi non erano altro che le idee, interpretate da Herbart come concetti generali, oggetto della logica, e quindi non come sostanze. Ciò significava, tra l'altro, che rispetto a dialoghi, quali la Repubblica e o il Sofista, contenenti i fondamenti della dottrina platonica, il Timeo, per Herbart, era soltanto un insieme di opinioni su ambiti che Platone escludeva dalla vera scienza. Nella sua recensione polemica, ma assai apprezzata dallo stesso Herbart, Beck obiettava che la logica ai tempi di Platone non era ancora stata scoperta ed era perciò anacronistica una distinzione tra logica e metafisica. Ma la domanda decisiva che gli poneva era se le opinioni del Timeo erano in contraddizione con il piano del sapere o se i due piani erano congruenti. Ossia, Platone escludeva la natura dall'ambito della conoscenza? La risposta di Beck era netta. Il mondo è foggiato dal demiurgo sul modello delle idee e ciò significa che anche il mondo sensibile è conoscibile tramite le idee. L'interesse di Beck per il Timeo era ovvio, tenuto conto di quanto era avvenuto in quegli anni. Schleiermacher non tradusse questo dialogo. Nel progetto di collaborazione con Friedrich Schlegel, quest'ultimo si sarebbe dovuto occupare del Timeo, per il quale provava particolare attenzione. La cosa interessante è che il 20 aprile 1801 Schlegel comunicava all'amico che la confusione che egli aveva ravvisato nella seconda parte del Timeo e attribuita a una mancata redazione definitiva del dialogo, ora gli appariva una prova della non autenticità di essa, per la presenza di rozze concezioni sulla metamorfosi degli elementi, sull'atomismo dei triangoli, e la presenza di dottrine aristoteliche quali l'impossibilità del vuoto, la quintessenza, nonché della patologia umorale. Ma anche il maestro di Beck, Friedrich August Wolff, stando alla testimonianza di Hegel, aveva espresso la convinzione che il Timeo non fosse che un centone di frammenti. Su un altro versante si deve ricordare che nel 1804 Carl Josef Windischmann aveva pubblicato una traduzione con introduzione e note del Timeo col significativo sottotitolo, un autentico documento della vera fisica. Naturalmente la vera fisica era per Windischmann, in questo periodo della sua attività, quella della Naturphilosophie, in particolare di Schelling, che dal canto suo non aveva mancato di occuparsi del Timeo, forse traducendolo sin dagli anni 1791-92. Del resto, von der Weltseele, uscito nel 98 di Schelling, era stato già nel titolo un richiamo al Timeo. Ma nel 1804, in Philosophie und Religion, Schelling aveva opposto il superiore spirito divino di opere quali il Fedro e la Repubblica al Timeo, considerato una sorta, cito, di matrimonio dell'intellettualismo platonico con i più rozzi concetti cosmogonici, dominanti prima di Platone. Per Schelling, dall'assoluto alla reale sensibile non c'era passaggio continuo e l'origine del mondo sensibile era pensabile, diversamente da quanto avveniva nel Timeo, solo come un salto rispetto, Sprung, rispetto all'assoluto. Solo l'assoluto era reale e in Dio c'era solo il fondamento delle idee che producono immediatamente solo altre idee. Questa era per Schelling la vera dottrina platonica, non quella del Timeo. La questione del significato da assegnare al Timeo era dunque rilevante per la Naturphilosophie. Lo schema storiografico tradizionale sulla formazione di Beck fu già ben espresso da Usener nel 60. A Halle Beck aveva studiato con Wolff, ma era entrato in contatto con Schleiermacher e Steffens e attraverso quest'ultimo, Steffens, con la filosofia schellinghiana della natura. Tutto ciò spiegherebbe il carattere dei primi lavori platonici di Beck. Ma questo schema si lascia sfuggire un punto, ed è che questi lavori, se tematicamente si collocano pienamente nell'atmosfera e nel centro di interessi della Naturphilosophie, per la loro metodologia e i loro risultati vanno oltre e anche contro di essa. Il primo e più noto di questi scritti, comparve nel 1807, ed è dedicato alla formazione dell'anima del mondo nel Timeo. è stato fatto notare che in questo scritto era già criticata la svalutazione schellinghiana del Timeo. Ma la cosa più importante è che Burke vi provava chiaramente che per comprendere il Timeo bisognava studiare la teoria pitagorica delle proporzioni e le teorie armoniche dei greci, che gli mostrava di padroneggiare ormai perfettamente attraverso l'utilizzazione sicura di testi difficili da Aristosseno, Nicomaco, Tolomeo e così via. Si affacciava qui il problema, sino allora insufficientemente affrontato, della connessione stabilita nell'antichità tra armonia delle sfere celesti e distanze dei pianeti. In altri due saggi, letti nell'Accademia di Heidelberg nel 1809 e nel 1810, Burke metteva a frutto queste indicazioni. Nel primo, egli mostrava che l'oscurità del Timeo era rerum non verborum. Le modalità di congiunzione degli elementi da parte del demiurgo erano spiegabili mediante il riferimento a una proporzione geometrica continua con due medie proporzionali. Di ciò Burke forniva una dimostrazione in stile euclideo. Analogamente riusciva a spiegare di che tipo fosse il triangolo che sta alla base della costituzione degli elementi e quindi la forma dei solidi formati da questi triangoli. Questo chiarimento dei contenuti matematici del dialogo gli consentiva anche di prendere posizione rispetto alle lezioni dei codici e a problemi di interpretazione lessicale. Quanto più era dissipata l'obscuritas che avvolgeva molti passi del Timeo, tanto più si riducevano le ragioni per dubitare dell'autenticità del dialogo o della sua unità. Restava aperto il problema delle fonti della dottrina platonica, degli elementi. Per ora Burke si limitava a escludere che una di esse fosse lo scritto sull'anima del mondo attribuito a Timeo di Locri, che era in realtà una compilazione più tarda. Nel secondo saggio, egli combatteva a fondo l'attribuzione di un sistema copernicano ad astronomi antecedenti ad Aristarco di Samo e ravvisava già in Copernico stesso l'origine di questa erronea attribuzione. In realtà, Platone non aveva affatto sostenuto che la Terra si muovesse intorno al Sole e neppure intorno al proprio asse. E il sistema filolaico faceva sì muovere la Terra, ma non intorno al Sole, considerato uno dei pianeti non il centro del sistema, bensì intorno a un fuoco centrale. Il risultato più cospicuo di queste indagini sarebbe stato il libro del 1819 su Filolao. Secondo Burke, dietro l'uso platonico dei numeri, non bisognava cercare un sapere occulto più profondo, un errore nel quale era in corso anche un Keplero. Questo riferimento è prezioso, perché Keplero era l'eroe della naturfilosofia romantica in funzione antinewtoniana. Il punto chiave di questa prospettiva della naturfilosofia era l'intenzione di scindere matematica e fisica da quell'abbraccio in cui erano state strette da Newton. Secondo Schelling, l'operazione newtoniana aveva condotto a un vuoto formalismo che non aveva alcun rapporto con una vera scienza della natura. Le forme della meccanica non erano che forme morte dei processi fisici. Come avrebbe detto Stephens, l'orientamento matematico della fisica si oppone al concetto di unità organica di tutte le forme viventi. Schleiermacher aveva già colto con acutezza l'assenza di una reale autonomia della matematica rispetto alla filosofia nel sistema del sapere esposto da Schelling nelle lezioni sul metodo accademico del 1803. Ci potremmo soffermare sullo scritto hegeliano De Orbitis Planetarum, che mostra un uso interessante del Timeo in chiave di naturfilosofia, ma per ora lo lascio, eventualmente in sede di discussione potremo affrontare la questione. In ogni caso, Schelling e i filosofi della natura miravano a una comprensione della natura fuori dall'orizzonte della fisica matematica newtoniana. Burke mostrava invece che la natura del Timeo era intrinsecamente matematizzata e conoscibile solo attraverso i costrutti della matematica. Come avrebbe detto in seguito Kreutzer, che l'aveva ben conosciuto ad Heidelberg negli anni in cui componeva i suoi scritti platonici, Burke era ein mathematisch-kritischer Kopf. Se si tengono presenti queste vicende, diventa comprensibile il sodalizio tra Böck e Alexander von Humboldt. Böck era un filologo che sapeva penetrare anche negli aspetti tecnici delle discipline matematiche. Humboldt, uno scienziato che non aveva disdegnato di seguire nel 1789 le lezioni di Heine a Göttingen e in seguito di Letron a Parigi e infine di Böck stesso a Berlino tra il 1833 e il 1835 e ancora in seguito. La stesura della grande opera di Humboldt, Cosmos, già abbozzata in una serie di lezioni tenute da Humboldt tra il 1827 e il 28, era punteggiata dal continuo ricorso per informazioni e consigli non solo ad altri scienziati come Gauss, per esempio, ma anche a Böck per quanto riguarda l'antichità classica. I quattro volumi di Cosmos uscirono tra il 1845 e il 1858 ed ebbero un vasto successo non solo in Germania, furono tradotti in Francia, eccetera. Il secondo volume, del 1847, conteneva una storia della Weltanschauung fisica che per la parte antica doveva molto a Böck, di cui accettava le conclusioni sull'astronomia filolaica e platonica. Da Böck e dal suo allievo Karl Ottfried Müller, Humboldt riprendeva anche in toto la distinzione tra dori e ioni. Questa distinzione, che risaliva almeno a Heine ed era impiegata anche da Friedrich Schlegel, era stata tradotta da Böck sul piano filosofico in una opposizione tra materialismo e spiritualismo. Ciò gli aveva consentito di interpretare la concezione pitagorica del numero come una forma di spiritualismo, nel quale il mondo sensibile appariva come una creazione dello spirito. Anche Humboldt scorgeva nel pitagorismo un'espressione della tradizione dorica, caratterizzata dal senso della forma e della misura. Per Humboldt, la vera preparazione della scienza moderna era proprio in questa filosofia della forma e della misura che conduceva a una trattazione matematica dei fenomeni fisici intrapresa dai pitagorici e continuata da Platone. Il pitagorismo e il timeo apparivano presentimenti importanti della connessione newtoniana tra fisica e matematica che la naturfilosofia aveva preteso di spezzare. Il rapporto di Humboldt con la naturfilosofia consente di gettare luce sul senso del lavoro storiografico di Böck. Nel 1834 Humboldt si esprimeva a favore della chiamata di Schelling a Berlino. D'altra parte, in una lettera di Böck a Böck del 1842, egli si pronunciava contro la pretesa della Philosophie der Offenbarung di dimostrarci a priori la geologia mosaica o i prodigi di un Apollonio di Tiana. Ma Schelling e Hegel, anche se erano stati gli inventori della nuova naturfilosofia, non dovevano essere considerati responsabili di quanto era accaduto contro la loro volontà, così diceva Humboldt. Ciò significava che per Humboldt, come per Böck, bisognava distinguere ciò che è vivo e ciò che è morto nella naturfilosofia. Ciò che è vivo è l'idea che possiamo trovare espressa incisivamente in Novalis. Nella fisica si sono sempre, cito frammento di Novalis. Nella fisica si sono sempre strappati i fenomeni dal loro nesso e non si sono studiati nei loro rapporti sociali. Ogni fenomeno è un anello di una catena incommensurabile, la quale comprende come anelli tutti i fenomeni. La fisica non dovrà più essere trattata a parti, a capitoli. Deve diventare una continuità, una storia, una pianta organica, un albero o un animale, un uomo. Chi conosce il suo particolare campo disciplinare soltanto come particolare e non è capace, aveva affermato dal canto suo Schelling, di riconoscere nel particolare l'universale, costui non è degno di essere un maestro e un custode della scienza. Il beruf del maestro deve mirare a promuovere qualcosa di superiore che non Handwerker talente. Non era molto lontano da questo ethos Humboldt quando si poneva l'obiettivo di cogliere le connessioni tra i fenomeni la natura come totalità vivente mossa dalle sue forze interne, un problema che egli trovava felicemente trattato già in Goethe. La natura non era un morto aggregato. Humboldt poteva qui citare Schelling. La natura è forza originaria, creatrice. Su questo presupposto si fonda l'idea di Humboldt di scrivere un'opera intitolata Cosmos, riprendendo deliberatamente già nel titolo un termine che per primo Pitagora aveva usato per indicare l'ordine del mondo. Qui il singolo e la particolarità erano visti solo nella loro relazione al tutto. La storia della Weltanschauung fisica, quindi, non doveva essere confusa con la storia delle scienze speciali, reperibili in manuali relativi ad essa. Essa intendeva essere la storia degli sforzi dell'umanità miranti a cogliere l'unità totalità del mondo, cioè appunto il cosmos. Naturalmente questo sforzo era tutt'altro che esaurito, ma si riproponeva come un compito da perseguire all'infinito. Varrebbe la pena studiare i rapporti di questa idea di cosmo con la funzione regolativa che Kant assegnava all'idea di mondo nella dialettica della ragion pura. Humboldt rilevava che spesso si era creduto di aver trovato il principio a partire dal quale spiegare tutto. Qui si annidava l'elemento caduco e inaccettabile della naturfilosofia, la pretesa di dedurre da principi dati dalla sola ragione la totalità della natura. Al contrario, la descrizione fisica del mondo che Humboldt voleva offrire era la considerazione pensante dei fenomeni dati attraverso l'esperienza come di un unico Naturganzes. Ma ciò significava puntare alla conoscenza delle leggi naturali secondo rapporti di misura e numero. Senza i progressi della matematica, in particolare la scoperta del calcolo infinitesimale, le leggi del moto dei corpi celesti non avrebbero potute essere scoperte e si sarebbero ancora rimasti immersi nei sogni selvaggi, wilde Träume, che appartengono alla romantik dell'astronomia fisica. Nel 1852, dopo vari decenni, Böck riprendeva i temi dei suoi anni giovanili. L'occasione era la pubblicazione nel 1851 di un volume dal titolo Über die kosmischen Systeme der Griechen, del poligrafo accanito anti-hegeliano Otto Friedrich Gruppe, che già nel 1840 aveva pubblicato un saggio su Archita. Il titolo conteneva certo un riferimento all'opera di Humboldt, Cosmos, ma il nocciolo della confutazione di Gruppe erano le tesi di Böck. Riallacciandosi a una vecchia tesi enunciata da Hideler nel 1808, Gruppe tentava di rilanciare l'idea che a Platone fosse nota la rotazione della Terra intorno al proprio asse. Con le Untersuchungen über das kosmische System des Platon, uscito nel 1852, dedicato ad Alexander von Humboldt, Böck non solo demoliva le costruzioni di Gruppe, ma forniva al tempo stesso la ricostruzione articolata della cosmologia del Timeo sulla base del presupposto che nelle considerazioni matematiche di Platone nulla è privo di significato. Da allora sino alla fine della vita non avrebbe più abbandonato questo campo di ricerche. Tutta una serie di studi, soprattutto riguardanti i calendari antichi, che erano corredati da tavole e calcoli dei tempi del sorgere e tramontare di varie stelle nelle varie epoche in cui erano vissuti vari astronomi antichi. L'importanza di questa indagine era ovvia per la cronologia. Con l'aiuto dell'astronomo di Berlino Wilhelm Förster, egli elaborava calcoli minuziosi di fronte ai quali, gli diceva, si erano invece arresi grandi filologi del passato, da Scaligero a Petau, e storici dell'astronomia come Delambre, che li aveva tralasciati perché non vi aveva scorto alcuna utilità per il presente. La motivazione addotta da Delambre segnava nettamente la distanza tra la vecchia storia della scienza antica scritta dagli scienziati e quella che ora intendevano scrivere i filologi classici. In essa doveva trovare posto anche ciò che la scienza moderna aveva abbandonato o considerato irrilevante. Con i saggi su Filolao e sulla cosmologia platonica, Böck aveva ed ha aperto un capitolo nuovo della storia dell'astronomia antica. Bastano pochi sondaggi per rendersene conto. 1817 compare l'Histoire de l'astronomie ancienne di Delambre, che si sarebbe immediatamente imposta come l'opera standard. La tesi centrale di essa era che solo presso i greci aveva fatto la sua comparsa una scienza astronomica, ossia una teoria capace di collegare i fatti osservati e di fornire misurazioni precise e i mezzi per effettuarle. Ma ciò per Delambre non aveva avuto inizio prima della scuola di Alessandria. In questo senso il suo eroe era Ipparco, che per primo aveva dato ai greci la trigonometria e fissato con sicurezza la durata del mese lunare e dell'anno solare. Gran parte dell'opera di Delambre, in particolare tutto il secondo volume, era dedicato all'esame degli scritti di Tolomeo che presupponevano le scoperte e le elaborazioni di Ipparco. Prima di Ipparco non c'erano che considerazioni vaghe e generali, mancanza di idee precise e di buone osservazioni. Anche Eudosso di Cnido era coinvolto in questa condanna. In poche pagine Delambre faceva una rassegna dossografica da Taleta, da Autolico escluso, tacendo sul Timeo e ripetendo il consueto luogo comune dell'eliocentrismo di Filolao, senza indicazione d'esame delle testimonianze antiche. Non molto diverso è quanto Laplace diceva nel quinto libro dell'Exposition du système du monde, la cui ultima stesura, rivista dall'autore, fu pubblicata nel 1835. Anche qui un'ancora più scarna dossografia, silenzio su Platone e attribuzione a Pitagora della scoperta dei moti della Terra intorno al Sole e intorno al proprio asse. Ma anche in un contesto diverso, filosoficamente forse più scaltrito, le cose non mutavano. Nel 1837 compariva la History of Inductive Sciences di William Whewell, una parte della quale era dedicata alla storia dell'astronomia greca. Whewell riferiva la notizia di Diogene Laerzio sull'eliocentrismo di Filolao, ma non la discuteva, anche se invitava in generale a non sopravvalutare le anticipazioni copernicane degli antichi, che erano solo ipotesi imperfette, messe in ombra dalle elaborate teorie geocentriche di Ipparco e Tolomeo. Così egli riconosceva l'importanza della convinzione platonica che la matematica era il linguaggio della scienza, ma il Timeo restava totalmente fuori dalla vicenda da lui ricostruita. Solo nella terza edizione del 1857 Whewell si sarebbe soffermato su Filolao e sul Timeo, ma rinviando ormai esplicitamente, non a caso, proprio alle interpretazioni da lui accolte di Böck e alle études sur le Timée de Platon uscite nel 40 di Martin, che si erano mosse sulle orme di Böck. Un'opera ancora oggi basilare come la storia dei sistemi planetari da Taleta Keplero uscita nel 1906 dell'astronomo dublinese Dreyer non avrebbe esitato a prendere posizione a favore di Böck contro coloro che avevano preteso di confutarlo, come Gruppe o Grote, o di correggerlo parzialmente, come il nostro astronomo Schiaparelli. L'interpretazione di Platone data da Böck era, secondo Dreyer, assolutamente inattaccabile da un punto di vista astronomico. Böck aveva quindi ampliato il campo della storia dell'astronomia antica. Questo aveva presupposti e conseguenze di ordine più generale sul modo di scrivere la storia delle scienze nell'antichità. Nel 1863 egli prendeva posizione anche nei confronti dello studio che Grote, lo storico George Grote, aveva appena dedicato alla dottrina di Platone concernente la rotazione della Terra, uscita a Londra nel 60, immediatamente tradotta in tedesco nel 61. Una delle obiezioni che Böck muoveva a Grote era di presupporre in Platone un'incapacità matematica, mentre Platone era ein mathematischer Philosoph. Questa valutazione di Grote si poneva esattamente agli antipodi di quella formulata da Gruppe, per il quale invece Platone era un grande spirito e quindi alla fine della sua attività era pervenuto all'eliocentrismo, anticipando di circa 2 millenni il futuro. La risposta di Böck a Gruppe apre un significativo spiraglio sul suo modo di concepire il lavoro storiografico sulle dottrine filosofiche e scientifiche dell'antichità. Per amore di verità, egli sentiva il dovere di asserire che a Platone, per quanto si poteva desumere dai suoi scritti, non era possibile assegnare la palma di avere scoperto la rotazione della Terra, tantomeno quella intorno al Sole. Eppure egli dichiarava di essere in un'età che tornava a privilegiare Aristotele rispetto a Platone. Siamo nel 1852 ed è sufficiente pensare al revival aristotelico di un Trendelenburg. Uno di quelli gli diceva che erano ancora begeistert per Platone. A Platone gli doveva la parte migliore della propria Bildung, ma con tutto ciò egli non poteva attribuirgli meriti che una seria ricerca storica escludeva. La rinuncia di Böck a considerare Platone un precursore sul piano dei contenuti scientifici si collega alla sua rivendicazione del campo della storia della scienza all'attività filologica. Oggi, in un'epoca di voga ermeneutica, dell'ampia enciclopedia di Böck si legge quasi soltanto la parte dedicata ai problemi dell'interpretazione. Ma essa fornisce l'immagine dominante dell'antichità sui vari aspetti all'interno della cultura tedesca, e forse non solo tedesca, non soltanto classica, della prima metà dell'Ottocento. In essa Böck riassumeva il senso delle sue indagini platoniche con queste parole. Il filologo deve poter comprendere e spiegare un'opera di filosofia della natura come il Timeo platonico altrettanto bene quanto le favole di Esopo o una tragedia greca. Produrre filosofia della natura non è compito del filologo, lo è invece sapere e comprendere che cosa è stato prodotto in questa scienza, perché la storia della filosofia della natura deve essere rielaborata filologicamente. Questo valeva per la storia di tutte le scienze, secondo me. Ciò differenziava nettamente la posizione di Böck da quella di Hegel, su questo forse bisognerebbe però soffermarsi di più. Per Hegel delle scienze che si occupano soltanto di oggetti finiti e ferme al livello dell'intelletto non si sollevano al pensiero, alla ragione, non si dà propriamente storia, perché in esse non c'è propriamente movimento e mutamento, ma soltanto giustapposizione e accumulazione di risultati. L'epoca d'oro del massiccio lavoro editoriale di pubblicazione dei testi fondamentali della matematica e dell'astronomia antica da parte di filologi, la quale ha un punto di svolta dal punto di vista tecnico per la ricognizione di tutta la tradizione manoscritta nell'edizione critica di Pappo del 1876-79 curata da Hulch sino agli inizi del nostro secolo, questo è il periodo straordinario dal punto di vista editoriale, ha la sua condizione di possibilità nella rivendicazione sostenuta da Böck, con tutto il peso della sua autorità nel mondo filologico, ma anche scientifico, del campo della storia delle scienze antiche all'attività filologica. Ma ciò consentiva anche una nuova impostazione del lavoro storico in questo settore. Alla prospettiva verticale, preferita sempre in qualche modo dagli scienziati storici, i quali miravano a ricostruire una sequenza progressiva di scoperte, si tendeva a sostituire una prospettiva orizzontale che mirava a integrare le opere scientifiche degli antichi nel quadro complessivo della cultura antica. Si apriva così una dicotomia che forse non è ancora stata sciolta dagli storici della scienza e che nella maniera più vistosa si espresse e si esprime ancora oggi come alternativa tra approccio interno e approccio esterno alla storia delle teorie scientifiche. In ogni caso, questa prospettiva orizzontale conduceva Böck ad affrontare il problema delle differenze tra scienza antica e scienza moderna come espressione di differenze di ordine più generale fra mondo antico e mondo moderno. Il mondo antico era caratterizzato, secondo quella tabella che anche il dottor Horstmann ha esposto questa mattina, il mondo antico era caratterizzato, secondo Böck, dal predominio della natura, della costrizione, dell'individualità, del tendere verso la molteplicità, del realismo, dell'esteriorità e dell'oggettività. Il mondo moderno appariva invece caratterizzato dal predominio dello spirito, della libertà, dell'universalità e dal tendere verso l'unità, dell'idealismo, dell'interiorità e della soggettività. Queste categorie, tipiche di una filosofia della storia di stampo anche hegeliano per certi aspetti, le quali sarebbero sovente risuonate anche nella cultura idealistica italiana del nostro secolo, come sappiamo, erano operanti, secondo Böck, in tutte le sfere della vita antica, anche nella scienza. Uno sguardo superficiale indurrebbe a credere che nell'ambito delle scienze della natura l'età moderna sia più empirica e perciò più esteriore dell'antichità. Questo errore, secondo Böck, dipende dal fatto di comparare tra loro la filosofia della natura degli antichi e la scienza naturale empirica dei moderni. In realtà, l'empiria degli antichi era fondata solo sull'osservazione e perciò era più realistica e dispersa nella molteplicità dei dettagli, mentre per i moderni era centrale l'esperimento che poggia su una libera combinazione, il che rende l'empiria moderna più spirituale e ideale. Di qui scaturiva la propensione degli antichi per la scienza naturale descrittiva grazie alle loro capacità osservative fondate sulla finezza dei loro sensi, in particolare della vista, nel cogliere la forma, gestalt e la plasticità. Ma senza esperimento, diceva Böck, le scienze descrittive non potevano svilupparsi oltre un certo limite. Ciò si connetteva d'altra parte alla carenza di strumenti di osservazione, sicché le capacità divinatorie degli antichi, per brillanti che fossero, come mostrava appunto il sistema filolaico, non erano in grado di eguagliare l'esperienza. La conseguenza era che le intuizioni più geniali erano collegate dagli antichi a fatti conosciuti imperfettamente e falsamente, e ciò lasciava libero campo all'azione negativa di pregiudizi di natura filosofica. E qui ci sono dei rapporti abbastanza interessanti su Whewell, ma anche su questo per ora salto. Solo nei rami matematici della scienza era possibile trovare, secondo Böck, anche nell'antichità, una spiritualizzazione dell'empiria. Tornava qui il primato assegnato da Böck alla tradizione dorica che aveva trovato espressione nella filosofia pitagorica del numero. Certo, Pitagora riconduceva al numero anche le configurazioni spaziali, ma componeva il numero di unità non astratte, bensì spaziali, e perciò poneva le basi di un secondo fattore di differenziazione rispetto alla scienza moderna anche per quanto riguarda le discipline matematiche, ossia il privilegiamento della geometria rispetto all'aritmetica, diversamente dai moderni, per i quali anche i problemi geometrici sono suscettibili di trattazione aritmetica. Ma questo confermava ancora una volta l'opposizione tra carattere plastico degli antichi e maggior livello di astrazione e spiritualizzazione dei moderni. Restava da chiedersi se l'assenza di strumenti di osservazione e di misurazione presso gli antichi potesse essere spiegata. Nelle sue soluzioni pubblicate postume che Böck conosceva, Cuvier, grande naturalista Cuvier, sosteneva che la sperimentazione ai tempi di Aristotele, che pure egli considerava il più straordinario genio della classificazione mai esistito, era pressoché impossibile, perché, parole di Cuvier, le arti industriali erano così poco sviluppate che offrivano allo studioso strumenti pressoché nulli. Ciò supponeva che lo sviluppo delle tecniche procedesse per proprio conto e predisponesse un serbatoio dal quale gli scienziati potevano attingere anziché essere un campo che l'applicazione delle scienze potesse incrementare. Al mancato collegamento delle indagini scientifiche rispetto al mondo della pratica aveva invece accennato un filologo come Wolff. Anche Böck si soffermava su questo aspetto. Egli ravvisava le ragioni del disinteresse degli scienziati teorici antichi per le applicazioni pratiche nel disprezzo per le attività tecniche, ossia in un atteggiamento valutativo. Questo sembrava anche rendere conto del mancato impiego di strumenti di osservazione, misurazione e manipolazione che pure esistevano, anche se non erano molto precisi. Ciò che non era avvertito era il bisogno di effettuare misurazioni più precise. Su questo punto, la posizione di Böck appariva più sottile di quella di Humboldt, che si era limitato a rilevare l'assenza di strumenti di precisione. Böck tentava invece di penetrare nella mentalità generale che aveva impedito la connessione tra scienza e tecnica. La cosa impressionante nel leggere queste pagine di Böck è come i punti salienti della differenziazione tra scienza antica e scienza moderna, al centro di queste prospettive ottocentesche, siano rimasti pari pari immutati sostanzialmente, al centro della discussione anche del nostro secolo tra un Coiré, Schül, Vernon e parecchi altri. Pur essendo cadute le categorie generali di filosofia della storia che li sorreggevano. Se ho visto bene, un solo punto, mi pare, era assente nel discorso di Burke. Il riferimento alla schiavitù come fattore esplicativo della stagnazione tecnologica. Anche se egli non mancava di affermare, in generale, che la schiavitù era un presupposto necessario della vita antica. Come sappiamo, questo non è un tema di monopolio marxista. Come noto, Diels avrebbe indicato le ragioni della svalutazione antica della tecnica nel predominio di una mentalità aristocratica e nell'economia schiavistica, che aveva bloccato lo stimolo a utilizzare macchine in sostituzione del lavoro umano. Ma già per uno scienziato come Justus von Liebig, la schiavitù era responsabile della decadenza della scienza greca. Resta il fatto che in questo contesto Burke taceva su essa. Ma se le differenze tra scienza antica e scienza moderna erano così radicali, si produceva allora una totale interruzione di comunicazioni tra l'antichità e la scienza moderna? Secondo Burke, la scienza moderna rischiava spesso di perdere l'Anschauung ideale. I nostri empirici, egli affermava, sono spesso soltanto manovali della scienza. Il tempio si è mutato in un laboratorio. Forse un antidoto era possibile, ma proveniva non tanto dalle scienze antiche, quanto dalla filosofia antica della natura. Anche se potevano scambiare per verità le immagini della loro fantasia, gli antichi avevano colto i fondamenti ultimi con un senso più profondo di quanto oggi non avvenisse, e li avevano colti non mediante osservazioni o prove, ma mediante la creatività dello spirito. Forse era giusta l'osservazione di Steintal secondo cui Burke non era mai stato un romantico. Certo egli rifiutava le speculazioni della naturfilosofia, ma lasciava in piedi l'aspirazione a cogliere l'ordine del mondo nella sua totalità e unità che gli antichi non erano riusciti a perseguire scientificamente, ma avevano elaborato filosoficamente, e che gli scienziati moderni, dal canto loro, rischiavano di smarrire, abbandonando il sentiero normativo che puntava a questa unità totalità, così limpidamente riproposto invece nel Cosmos di Humboldt. Recensendo nel 1848, sulla Edinburgh Review, il primo volume di Cosmos, uno scienziato come Herschel riconosceva che Humboldt era la persona più adatta, per la sua conoscenza in tutti i rami della scienza, a fornire una descrizione fisica dell'universo. 48. 20 anni dopo, 1869, Helmholtz, altro un grande scienziato, avrebbe affermato che se l'impresa di Humboldt era stata possibile nella prima metà del secolo, ora, per la crescente specializzazione, si poteva dubitare che essa fosse ripetibile anche da parte di uno spirito come Humboldt. Qualcosa era cambiato. Alla fine del secolo, Harnack, nella sua storia dell'Accademia di Berlino, avrebbe fatto proprio il verdetto di Dove, secondo cui Cosmos era un'opera del secolo XVIII. I presupposti e l'ethos di Cosmos erano al cuore anche dell'interesse di Burke per la scienza e la filosofia della natura degli antichi. Dopo la metà del secolo tutto ciò veniva meno. Continuavano a rimanere in piedi però, come dotati ormai di una vita autonoma, i problemi storiografici che caduche filosofie della natura e della storia avevano generato. Vi ringrazio. Zwei Teile zu gliedern. Im ersten Teil werden wir uns mit den beiden Referaten über Böck befassen und im zweiten Teil der Diskussion dann auf die Einleitungen des heutigen Vormittags zu sprechen kommen. Ich bitte also noch einmal, dass ich alle, auch die Borsisti, völlig ungeniert an dieser Diskussion beteiligen Es kann sich in unserem Kreis niemand blamieren. Das ist ausgeschlossen, sondern wir können nur die Vorträge durch unsere Fragen und durch unsere konstruktiven Ergänzungen vertiefen, erweitern und ergänzen. Bitte also zunächst die Diskussion über die BÖK-Referate zu führen. Herr Momigliano, wollen Sie dazu? Quello che io vorrei chiedere a entrambi i nostri conferenzieri è questo. Esiste una tradizione antecedente al secolo XIX, sia di interpretazione platonica, sia di interpretazione della scienza antica, soprattutto, che mi pare difficile e che non abbia influito in qualche modo su questi, e quello che vorrei sapere è esattamente a che punto si è successo. Alludo da un lato alla tradizione platonica di Cambridge e dall'altro lato a Scaligero per la scienza, cioè due è vero orientamenti che sono rimasti nel XVII secolo paralleli, però con ogni rapporti, il rapporto tra la scuola di Cambridge, Caldwell e compagnia e Newton è ovvio, è noto, e dall'altra parte c'è tutto questo interesse per la cosmologia in connessione con la cronologia, che è, insomma, per noi che siamo degli ignoranti in questa materia, è personificato da Scaligero. Ora, dunque, che cosa è avvenuto quando delle persone come Böck si sono messi a battagliare con Schleiermacher? Qui naturalmente siamo al nodo della questione. Böck non parla vagamente, parla con un'altra tradizione platonica che gli è assolutamente vicina, che è quella di Schleiermacher. Qual è la differenza tra queste due tradizioni e qual è il rapporto tra queste due tradizioni e il mondo della cultura tra la fine del Cinquecento, il principio del Seicento e la fine del Settecento? Quando uno come Harnack diceva che Humboldt apparteneva alla cultura settecentesca, non parlava mica con la testa e nelle nuvole. Allora, questo è questi sanci nero da si haben in gründer das problem in der frage der beziehung zwischen Schleiermacher und der Vorgestellt. Aber die Frage ist, was früher und was später. Und Hegel ist ein Teil dieses Problems, ganz klar. Wir wollen vielleicht so verfahren, dass wir zunächst die Meldungen und die Beiträge zu den Böck-Referaten zu Worte kommen lassen und den Referenten über Böck dann am Ende noch einmal Gelegenheit geben zur Antwort. Dann würde ich vorschlagen, Herr Buschka, dass... Ja, ich möchte nur zwei ganz kleine Ergänzungen zu Böck zu machen. Das eine ist zum Herrn Forstmann. Ich habe es ihm schon gesagt, er hat natürlich in der Eile vor dem Essen, die ganzen Namen, die unglaublich vielen und bedeutenden Namen der Böck-Schüler genannt. Ich möchte hier nur zwei herausgreifen, um die Weite seiner Wirkung zu sehen. Das eine ist, dass Eduard, heißt er nicht, Gerhard und die anderen Gründer des Istituto di Corrispondenza di Corrispondenza Archeologica in Rom Böck-Schüler gewesen sind, die also 1829 dieses Jahr ursprünglich als internationales Institut gedachte Institut in Rom gegründet haben, und es war auch der Gerhard, der dann den preußischen Kronprinzen, späteren König Friedrich Wilhelm IV. Auf dem Markt in Positano hineingeschwatzt hat, wie, ich glaube, so ähnlich wie Friedrich Wilhelm selbst geschrieben hat, das Protektorat über dieses Institut zu übernehmen. Und dieses Institut ist ja eigentlich nur dann ein preußisches geworden, weil die Preußen es gezahlt haben. Und die anderen, es war ja zunächst international, eine Zeit lang war auch dann nach Friedrich Wilhelm Protektor, war ja dann Metternich auch Protektor zur Zeit des Kölner Ereignisses und der Spannungen zwischen Preußen und dem Vatikan. Das ist das eine, also hier die Wirkung von Böck direkt auf diese Gründung des Archäologischen Instituts. Herr Kolbe ist noch nicht da, er steht im. Er wird kommen. Also das ist das eine. Und das andere betrifft mich als Österreicher speziell, das ist etwas, was ich von Ihnen heute gelernt habe, was ich nicht wusste, dass Hermann Bonitz auch ein Böck-Schüler gewesen ist. Und Hermann Bonitz ist zusammen mit Franz Exner der große Mitarbeiter des Ministers Graf Leo Thun Hohenstein gewesen, die nach 1848 das Humboldtsche Universitätssystem und Exner andererseits bei den Schulen, das Gymnasiale, das humanistische Gymnasium, natürlich hat man schon vorher Gymnasien in Österreich gehabt, Stiftsgymnasien und so weiter, aber das spezifisch neoklassische humanistische Gymnasium ist auch in dieser Reform nach Österreich übertragen worden. Gerade durch diesen Hermann Bonitz, einen Preußen, der diese Humboldtsche, also jetzt nicht Alexander von Humboldt, sondern Wilhelm von Humboldtsche, also der Bruder, das Humboldtsche System, Universitätssystem nach Österreich übertragen hat. Das sind nur zwei Persönlichkeiten, die hier in Frage kommen. Und noch etwas zum heutigen Nachmittagsreferat, eine Kleinigkeit, aber die nicht direkt mit der Antike zu tun hat, aber eine gewisse Parallele hat. Der Göttinger Germanist Albert Schöne wird demnächst publizieren als Buch, ich glaube, es ist noch nicht erschienen, über Goethes Farblehre. Und zwar stellt sich dabei heraus, dass Goethe der Ansicht war, das mir auch unbekannt war, dass eigentlich sein größtes Werk und sein bedeutendstes Werk die Farblehre, die Widerlegung von Newton gewesen sei. Und da steht ganz dahinter im Grunde etwas aus der sehr kurzen, wenig bekannten pietistischen Epoche von Goethe, der geradezu einen religiösen Auftrag und Mission darin zu sehen glaubte, die Newtonschen Farbenlehre zu widerlegen, als etwas also fast vom religiösen und philosophischen Standpunkt aus, weil das Licht eben etwas Göttliches ist und die Welt und daher etwas Originäres ist und nicht die weiße Farbe aus dem Zusammentreffen der anderen Farben entstanden sei. Und er hat sogar gesagt, was hätte, ich hätte 5 oder 6 Dramen schreiben können, aber das wäre doch unbedeutend gewesen. Stattdessen habe ich die Welt von dem Unsinn des, der newtonschen Formlehre überzeugt. Wenige Jahrzehnte später war die goethische Formlehre eigentlich nur mehr eine Verlegenheit, wo man gesagt hat, ja, also auch der große Goethe hat hier eine gewisse Parallele, auch Goethe steht ja dieser Naturphilosophie nahe. Weitere, ja, bitte schön. Dato che appunto il professor Manduska ricordava 2 allievi germanici di Brecht, io ne vorrei ricordare un italiano che per lo più si dimentica, che è Antonino Salinas, che è un personaggio estremamente interessante per appunto gli studi, diciamo, di tipo archeologico antiquario condotti in Italia. Egli andò a studiare a Berlino ed ebbe come maestro, questo è estremamente interessante, c'è un italiano che va lì e non studia né diritto né discipline filologiche, ebbe come maestri Beck, Kiepert e Gerhard. Cioè, e questo mi sembra, cioè, un dato da ricordare anche per poi comprendere l'evoluzione, diciamo, degli studi di alcuni allievi di Salinas, che secondo me hanno rappresentato tra i migliori storici antichi italiani di questo secolo. E naturalmente Salinas andò lì con una preparazione di tipo antiquario, qui rifacendosi al discorso del professore Momigliano di stamattina, appunto. Ma ecco, parliamo di Beck o parliamo di... degli allievi, dell'allievo di Beck Salinas, che ha avuto un certo significato. Come? Parlavo di Salinas, che è stato allievo di Beck, che naturalmente ha avuto un certo significato, cioè per la cultura italiana, cioè questo sulla recezione dell'antico, mi pare che... Sì, va bene, ma dico... Poi l'altro discorso... Salinas sì. Di Beck non ha recepito niente. Questo lo dice lei. Nichts. Assolutamente niente. Mentre naturalmente Salinas ha insegnato a tutta questa gente, a Colomba, eccetera, altre cose. Quindi se vogliamo discutere sulla filologia italiana del secolo, della fine del secolo, Salinas c'entra moltissimo. Su Beck non c'è stato. Esiste una lettera, lunga lettera in latino, poi tra l'altro, perché Beck l'ha scritta in latino al rettore dell'Università di Palermo di allora, cioè in quanto Salinas aveva chiesto un referat, cioè appunto un referee, cioè sulla sua attività in Germania, esatto, e Beck scrisse questa lunga lettera in latino dicendo: il signor Salinas ha seguito le mie lezioni e ha particolarmente approfittato sotto questi aspetti, poi lo possiamo dimostrare nella pratica attraverso il suo interesse ad alcuni aspetti finanziari, il problema della libra e alcuni aspetti metrologici. Comunque questa è la prima cosa, cioè appunto per ricordare nei rapporti italo-germanici la presenza di questo Salinas, che per lo più si dimentica, allievo anche di Kiepert, diceva che era, tra l'altro. Poi la seconda cosa era nella relazione del dottore Kostner, mi è interessato, cioè io pensavo ad un altro autore che appunto ha scritto un'altra enciclopedia delle alte Erkundungswissenschaften, cioè a Magdic, cioè alla diversa prospettiva con cui Beck e Magdic hanno, che può essere utile per capire anche Beck, no? Cioè con cui si sono avvicinati all'antico, cioè alla ricezione dell'antico. Cioè il Magdic c'è, ecco, io vorrei sapere, questa è la domanda, cioè vorrei sapere, cioè l'aspetto linguistico, puramente linguistico, cioè glottologico, cioè che importanza ha in Beck, cioè se lei potesse soffermarsi, mentre il Magdic è fondamentale, cioè non a caso i suoi saggi linguistici sono estremamente importanti, appunto a parte il problema degli indo-germanici, ma il problema della grammatica, dell'insegnamento, perché in fondo queste enciclopedie dell'Alte Erkundungswissenschaft sono fatte per l'insegnamento. Cioè che importanza ha la linguistica, cioè la grammatica, nella recezione dell'antico da parte di Beck? Grazie. Weitere Meldungen oder Ergänzungen der Referate zu... Ja, Herr Sartori, Entschuldigung. Io mi scuso se quello che sto per dire per caso è stato detto questa mattina dal dottor Postman. Io ho solo 2 domande da fare, e sono queste. Beck, quando parlava del Timeo platonico e in genere di Platone, aveva coscienza che su Platone potevano aver influito le teorie matematiche, cosmogoniche, astronomiche, orientali, soprattutto mesopotamiche? Questa è la prima domanda. La seconda è, a proposito del divario tra la tecnica e la scienza, di cui ha parlato Candiani, io ho letto da qualche parte, ma non mi ricordo più, che questa affermazione, gli antichi avevano raggiunto la conoscenza teorica dei principi della scienza, ma non sono mai arrivati ad applicarli praticamente. È accettabile questa affermazione? No. Wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, dann muss ich mich erdreisten, Herr Campiano selbst eine Bitte vorzutragen. Sie haben Ihr Referat konzentriert auf Böck und wir alle wissen warum und verstehen das. Aber vielleicht wäre es möglich, die weitere Entwicklung der Storia della Scienza Antica Usener-Diels nur einmal zu skizzieren. Nur eine Skizze, nicht eine Ausführung, aber damit wir die Entwicklung dieser speziellen Fragen durch das Ottocento besser begreifen. Es ist so selten, dass man einen Spezialisten wie Sie für diese Dinge als Gesprächspartner hat. Und darum also meine vermessene Bitte, vielleicht eine Rückkehr zu dem ursprünglichen Thema und nur eine kleine Skizze der Evolutione Böck, Usener, Diels, das wäre alles. Nun haben wir dankenswerterweise eine ganze Reihe von Beiträgen und Fragen an die Referenten. Die meisten, wenn ich das richtig rekapituliere, richteten sich an Sie, Herr Campiano. Darf ich Ihnen dann das Wort gleich erteilen? Ja. Il problema che ha posto Momigliano, anzi i più problemi che ha posto Momigliano ovviamente richiederebbero un approfondimento, un'analisi molto accurata di una tradizione molto ampia che, per quel che mi risulta, Tigerstedt ha soltanto incominciato ad abbozzare, cioè sullo studio delle interpretazioni platoniche forse già dal Medioevo in poi, o perlomeno dalla tradizione rinascimentale in poi. E indubbiamente Böck almeno una parte di queste tradizioni di fronte le ha e le conosce. Una è quella dei platonici di Cambridge. Ora, qui viene fuori un problema, cioè l'interpretazione dei platonici di Cambridge è di stampo neoplatonico, cioè fino a che punto allora l'interpretazione di Böck di Platone ha ancora un taglio neoplatonico oppure no? Ecco, su questo punto a me pare che Böck si sia staccato, io credo anch'io. Böck si è staccato da questa impostazione neoplatonica ed è questo forse, mentre invece i naturfilosofi romantici sono ancora immersi in questa atmosfera neoplatonica. E anche Goethe. Ecco. Io appunto dove ti volevo portare. La rottura, è vero, è la rottura con la tradizione neoplatonica, che vuol dire naturalmente con la rottura di tutto il pensiero di interpretazione di Platone del Rinascimento. Tutto veniva poco. Io ho quell'impressione, cioè mi pare che il suo modo di studiare il Timeo sia ormai fuori da questo tipo di orizzonte. È vero che i platonici di Cambridge, Newton ha avuto influenza di questo, ecco, però il Newton che in qualche modo arriva a Böck è un Newton, non è il Newton magico teologico, cioè quello che ormai noi conosciamo molto bene, che sappiamo che quanto in Newton ci fosse di interessi per questo tipo di problemi. E in Böck non affiora, ecco, non cioè affiora. Lui elimina la parte neoplatonica, diciamo così, in un grosso modo di Newton. Ora, su questo quanto ha pesato anche Schleiermacher, perché anche Schleiermacher per certi versi può tentare una lettura di Platone fuori dallo schema neoplatonico per certi aspetti, anche se per certi altri forse Schleiermacher è ancora legato a questo tipo di orizzonte. Quindi per quanto riguarda questa tradizione forse il punto è questo. Per quanto riguarda l'altra, quella di Scaligero, qui la questione è più complicata. Lui lo cita più riprese, Scaligero, indubbiamente conosce i contributi tecnici dati da Scaligero, eccetera. E soprattutto la connessione cosmologia-cronologia, che è indubbiamente anche al centro dei suoi interessi, cosmologia-cronologia, cioè i suoi studi di astronomia hanno poi sempre dei risvolti che lo portano verso le questioni cronologiche anche. Qui bisognerebbe anche vedere, io non sono riuscito assolutamente, fino a che punto il rapporto con un altro personaggio di quell'epoca è stato significativo per Böck, cioè Ludwig Ideler, che è il grande cronologo, ma si capisce. Però non lo so, cioè io confesso qui la minoranza di sapere. L'influenza indubbia. Quindi fino a che punto anche Ideler stesso si riallaccia poi a questa tradizione, perché l'interesse proprio anche di calcolare i tempi del sorgere, dei tramontare dei vari astri, delle costellazioni, eccetera, eccetera. Fino a che punto filtra in lui? Indubbiamente ha avuto rapporti con Ideler fin dai. Presto, perché anche Ideler era allievo di Wolf. E a Berlino Böck entra in rapporti con Ideler e entrambi fanno parte di quella società greca che è menzionata da Hoffman nella sua biografia e partecipavano a queste sedute, cioè, quindi presto, insomma, probabilmente presto. Ecco, direi questo. In ogni caso, nella tradizione di Scaligero, da Scaligero in poi, non so fino a che punto sia presente una interpretazione poi complessiva del Timeo. Ecco, cioè se non hanno solo toccato certi punti, ma per esempio tutto quello sulla struttura degli elementi nel Timeo, eccetera, cioè questo mi sembra un elemento abbastanza nuovo in Böck, che invece in questa tradizione probabilmente non era. Cioè qui però bisognerebbe andare a esplorare un po' tutta questa letteratura che. C'è soltanto un elemento, se mi permettete, che aggiungo immediatamente su questo, perché non ne so abbastanza, mentre ne dovrei sapere, perché quello è un autore che io ho studiato, ed è cioè Bernays. Bernays è evidentemente qui all'incontro delle due correnti, la corrente filologica da un lato e la corrente di Scaligero dall'altro. Ma di più, attraverso suo padre, Bernays ha tutto un rapporto con Schelling. E che cosa esattamente Bernays dica sulla parte di interpretazione della cronologia di Scaligero, che rapporto lui stabilisce tra questa interpretazione, diciamo così, dei tempi e la parte cosmologica generale, io non lo ricordo più in questo momento. Lì non c'è altro da fare molto semplicemente di andarsi a riprendere il volume di Bernays su Scaligero e rileggerlo, e questo farò, ce l'ho a casa. È vero, ma è lì perché c'è la doppia complicazione, che non solo da un lato c'è Scaligero, ma c'è l'interesse particolare di Bernays per Schelling. Quanto riguarda questa tradizione si può anche ricordare un punto, cioè che forse. Non so fino a che punto, ma io questo lo lascerei stare. Cioè è un territorio indubbiamente questo che anche Petau, cioè questi cronografi. Quando si dice Scaligero poi si dice tutta questa tradizione, Petau, insomma, l'arte verifica le date, tutto. Ma insomma. No, forse sul sistema filolaico in questi non l'hanno toccato, cioè hanno recepito quello che Copernico stesso diceva, cioè che il filolao era già un anticipatore di Copernico stesso, mentre Böck rimette le cose a posto qui, ecco, su questo forse innova. Di mettere cosa a posto, dice non c'è niente, il sistema filolaico non ha niente a che fare con quello copernicano. Quindi su questo aspetto tecnico probabilmente qui c'è una modificazione. Ma come dico lì, bisognerebbe chiedere al mio amico nonno El Sverro, che sta studiando un punto da questa roba qui, insomma, io non mi sono assolutamente adattato. Collegato a questo è forse il problema di Goethe, indubbiamente è abbastanza significativo, tenendo conto di cosa, di quanto pesava Goethe nella cultura tedesca di quel periodo, non solo letteraria ovviamente. Ricordo che c'è uno scritto di Helmholtz dedicato a Goethe e lo studio delle scienze naturali, in cui Helmholtz, pur costruendo, accettando una teoria dei colori ovviamente diversa da quella di Goethe, ma sulla linea della teoria newtoniana, tuttavia fa un alto apprezzamento ai contributi di Goethe allo studio delle scienze naturali. Ecco. Da questo punto di vista ha un atteggiamento abbastanza simile a quello che hanno Alexander von Humboldt e Böck stesso nei confronti di questo crogiolo della naturfilosofia. Cioè, hanno sbagliato quando sono voluti scendere nei contenuti tecnici della fisica e della matematica, però hanno posto un po' quel tipo di problemi generali che probabilmente non dobbiamo abbandonare, cioè il senso dell'unità e totalità della natura e della natura intesa come un organismo vivente che si modifica incessantemente. Ecco, questo forse continuano a mantenerlo in piedi. E qui mi ricollego a quanto diceva il professor Sartori, ecco. Conoscenza teorica dei principi. Indubbiamente sì, cioè, però per Böck questa la dà la filosofia, curiosamente. La filosofia antica, non la scienza antica. Non la scienza antica. E il limite quindi poi delle applicazioni tecniche, tutto quanto, lui poi qui innesta quei temi che dicevamo. L'influenza delle cosmologie orientali, direi che almeno io non ho trovato cenni in cui lui l'accetti, anzi mi sembra che sia refrattario in linea di principio, cioè il mondo greco è un mondo che si è fatto in qualche modo da sé. Il mondo greco è chiuso in se stesso. Si è fatto da sé. Qui probabilmente bisognerebbe studiare il livello di conoscenze orientalistiche che allora erano diffuse. Io sono del tutto ignorante in questo, indubbiamente però la scoperta delle tavolette mesopotamiche eccetera ovviamente più tarda e cambia poi le cose in seguito. E questa posizione naturalmente ha condizionato la nostra comprensione del mondo antico, certo, ed è una posizione cristiana, e l'enciclopedia ci ha dato questo che è durato per decenni, certo. Ma no, infatti poi Neugebauer ovviamente, che invece ha mostrato chiaramente quanto di una vasta fetta delle conoscenze matematico-astronomiche antiche siano collegate a questo mondo mesopotamico e come la geometria euclidea invece sia un piccolo episodio all'interno di questa storia molto più grande, ecco, tutto sommato. Vielleicht kann ich da gleich hinzufügen, also diese Zusammenhänge zwischen Orient und Griechenland sind bei Böck eher so auf der allgemeinen geschichtsphilosophischen Ebene präsent. Also er ist davon überzeugt, dass natürlich die Antike, ich habe das versucht darzustellen, nicht ein in sich geschlossenes etwas ist, was da so völlig isoliert steht in der Geschichte, sondern schon eine bestimmte Stelle einnimmt innerhalb des Entwicklungsganges vom Orient bis zur Gegenwart. Aber das ist sozusagen auf der Ebene des allgemeinen geschichtsphilosophischen der allgemeinen geschichtsphilosophischen Grundanschauung. Das wird nicht im Einzelnen exemplifiziert. Das ist eigentlich so das Modell, was man eben halt dann auch im Bereich um Schlegel, auch bei Schelling etwa, findet. Aber das wird sozusagen nicht mit empirischen, historischen Daten im Einzelnen gefüllt. Das ist eine Grundbehauptung, das ist das alte Schema Orient noch absolute Notwendigkeit. Dann Griechenland Freiheit, und diese Idee der Freiheit setzt sich dann bis in die Moderne fort. Das findet man so als Schema immer, aber ohne dass es irgendwie konkret greifbar gemacht wird durch historische, wissenschaftsgeschichtliche Analysen im Einzelnen. Vielleicht sollte ich zum Platonismus, wenn wir bei diesem Thema bleiben, ich weiß nicht, vielleicht können wir da gleich nochmal anschließen. Das Interessante auch beim Platonismus Böcks ist ja, dass wir Platonismus haben, einmal als Forschungsobjekt im Einzelnen, vor allen Dingen im kosmologischen Bereich, und dann Platonismus als eigene Grundorientierung wieder. Dieser Platonismus verbindet sich dann mit dem deutschen Idealismus, hat da große Affinitäten, und man kann eigentlich sagen, dass der Platonismus dann wiederum Böcks Nähe zum deutschen Idealismus stützt und umgekehrt. Das ist sozusagen aber wieder auf der Ebene der Grundorientierung. Wenn dann konkrete Forschung gemacht wird, in der Kosmologie spürt man davon jetzt erstmal überhaupt nichts wieder, sondern der Platonismus ist gewissermaßen das gedankliche Fundament und zugleich aber im Spezifischen auch Forschungsobjekt. Und interessant ist, welcher Platonismus, also was bei Platon bei ihm eigentlich in den Blick kommt. Er könnte zum Beispiel nichts anfangen mit einem Platonismus, der sich an der Politeia orientierte. Wenn er einen Platonismus hätte, der vom Chiorismos ausginge, hier die Ideen, da die Wirklichkeit, die dem nicht entspricht, könnte er sozusagen die Verbindung zum deutschen Idealismus nicht herstellen. Es ist eben nicht die Politeia, die er rezipiert, sondern es ist dann der Timaios, wobei man ja fragen kann, welche Aussagekraft hat das, was der Timaios da als Mythos möglicherweise von sich gibt. Aber es ist signifikant, dass er sich von vornherein an der naturphilosophischen, an dem naturphilosophischen Plato, wenn man so will, orientiert, nicht an der Politeia, die ist gar nicht in dem Maße präsent. Nicht der Chorismos Platon, sondern der Platon, der davon ausgeht, dass die Welt vom Demiurgen nach den Ideen geschaffen worden ist. Das stützt sozusagen seine Ontologie und seine Geschichtsphilosophie. Das ist der Platonismus, der sein Fundament bildet, nicht der andere. E mi resterebbe da dire qualche cosa sullo sviluppo successivo di queste ricerche nella filologia classica tedesca. Io avevo indicato due nomi che mi sembrano due nomi decisivi e significativi, e cioè uno Usener e l'altro Diels. Dietro a entrambi questi autori stanno presupposti teorici molto diversi, anche se Diels era stato allievo di Usener a Bonn. E quindi dire qualcosa di questo sarebbe difficile qui. C'è però un punto da sottolineare. Usener rivolge la sua attenzione prevalentemente, anche lui continua nella tradizione di Böck di storia dell'astronomia, cioè ha un forte interesse di storia dell'astronomia, però curvato in una direzione tutta particolare. Cioè, intanto Böck studiava l'astronomia delle origini, Filolao, Platone, Usener studia l'astronomia dell'età tardoantica, cioè dell'età bizantina, anche tardoantica e bizantina. E allora l'attenzione che lui ha per questi problemi non va tanto agli aspetti, diciamo, di connessione tra fisica e matematica, che invece a Böck stavano a cuore, ma va al problema del rapporto tra astronomia ed astrologia, cioè l'interesse per l'astrologia antica. E questo si collega ai suoi interessi di storia delle religioni. Questo si collega ai suoi interessi di storia delle religioni. Cioè in Usener avviene cioè un altro episodio significativo, il tentativo di collegare storia delle religioni e storia della scienza antica, e trova il punto di raccordo in questo ambito speciale che è l'astrologia, che per esistere, secondo Usener, richiede l'esistenza di un'astronomia già sviluppata. L'astrologia cioè non è una prescienza, qualcosa di antecedente all'astronomia, è qualche cosa che può nascere solo se c'è un'astronomia già sviluppata in senso tecnico, con degli apparati di calcolo, di osservazione, di calcolo, eccetera. E questo è, io credo, il punto importante di Usener in questa direzione. Per quanto riguarda Diels, Diels è una figura estremamente difficile, complicata, io ne so poco, a quel poco che so, mi pare che con Diels avvenga un'altra modificazione abbastanza significativa, cioè l'interesse rivolto ad una serie di settori che i grandi filologi in qualche modo per ora non avevano affrontato direttamente, di quei grandi lavori preparatori, parziali, indubbiamente c'erano. Cioè, uno è lo studio delle teorie fisico e chimiche del mondo antico. C'è un saggio, per esempio, di Diels molto interessante sulla scoperta dell'alcol. La scoperta dell'alcol. Un settore, cioè questo, delle conoscenze del mondo antico che era abbastanza ignoto, ecco, diciamo, anche agli specialisti stessi. E il secondo è il grande contributo che lui ha dato alla storia della medicina. Cioè con Diels la storia della medicina antica assume ormai un apparato organizzativo, quel che si diceva prima, cioè il corpus medicorum grecorum, eccetera, eccetera, la ricognizione dei manoscritti ippocratici e così via. C'è un forte impulso a questo settore di discipline. E mentre invece l'interesse per l'astronomia in Diels cala, viene meno. Ecco. Questo probabilmente bisognerebbe cercare di capire di più come mai avviene questo. Ecco, io molto poco che so di questo. Ja, zu der Frage nach Matvek. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja um die Frage des Stellenwertes der, speziell der sprachlichen Forschung, der Grammatikforschung innerhalb jetzt des Böckschen Konzepts. Das ist im Grunde genommen die Auseinandersetzung Böck-Hermann. Die Frage war, hat die Sprache selber als Forschungsobjekt einen Vorrang gegenüber den anderen Forschungsobjekten, nämlich den Sachen, also der, dem, was man ansonsten an der Artikel betrachtet, das Finanzwesen, die politische Geschichte oder was auch immer. Und da ist eben Böck der Meinung, dass die Grammatik, die Sprache selber, genauso Gegenstand, Sache ist, wie alle anderen Sachen auch. Das heißt, da Böck subsumiert die Sprache unter die Sachen. Dabei meint Sache aber generell Objekt von Forschung. Während Hermann dort, wo er von Sache spricht, eigentlich einen Begriff von Sache hat, der Sache versteht als materielles Wissen, womit man was machen kann, was man nutzbar machen kann. Das ist ein anderer Begriff von Sache. Deswegen ist die Differenz zwischen Wort- und Sachphilologie unscharf, weil im Grunde genommen die Differenz im Begriff der Sache liegt. Da muss man hinschauen, da sieht man, Böck versteht unter Sache schlicht Objekt im Gegensatz zur Tätigkeit des Philologen. Tätigkeit ist Hermeneutik und Kritik, Interpretation und Kritik. Das sind die beiden Tätigkeiten. Und die richten sich nun auf sehr unterschiedliche Gegenstände. Eins davon ist die Sprache. Wobei zwischen der Kenntnis der Sprache und der Kenntnis der Sache auch wieder ein Zirkelverhältnis besteht. Ich kann sozusagen die Sache nur über die Sprache und die Sachen wiederum erkennen und die Sprache selber eröffnet mir die Sachkenntnis. Das heißt, dieses Zirkelverhältnis ist bei Böck das Charakteristikum und es bedeutet, dass Sprache eine Sache unter anderen ist. Hermann ist der Meinung, Sprache ist die besondere Sache. Hauptsächlich geht es um Sprache, deswegen zielte seine Arbeit letztlich auf die Interpretation und Kritik von Schriftstellern. Hermanns Vorwurf an Böck war, dass das Programm Böcks zu weit ist und weil es zu weit ist, geht die Sache, die Sprachkenntnis verloren. Das ist sozusagen eine Überforderung der Philologie, die dazu führt, dass man nicht mehr genau auf die Sprache achtet. Aber im Grunde genommen hat in der Böckschen Konzeption die Sprache natürlich selbstverständlich genauso ihren Ort, aber als eine unter anderen zu betrachtenden Sachen. Matvek würde eher in die Tradition der Hermannschen Richtung als Texteditor, Kritiker und so weiter hinein zu setzen sein. Also das ist die Differenz letztlich zwischen Hermann und Böck, um die es da geht. Ich hoffe, ich habe die Monate. Io vorrei eventualmente aggiungere una piccolissima domanda, riprendendo la domanda del professor Sartori, che ha avuto risposta ma che a me non è stata del tutto chiara su un punto. Cioè, il professor Sartori ha affermato quello che tutti abbiamo letto da molte parti, che cioè la scienza antica, per la scienza ellenistica, aveva già conseguito i principi teorici che avrebbero permesso il passaggio alle scoperte tecniche che poi hanno caratterizzato il mondo moderno, che questo passaggio non è avvenuto per motivi che poi gli storici spiegano diversamente a seconda della loro tendenza. Ecco, riprendo la domanda e chiedo, passando dalla storia della scienza alla scienza, ma è vero, è vera questa affermazione che avessero raggiunto i principi teorici che avrebbero permesso questo passaggio? Cioè in generale il mio parere, non quello di Böck, ecco, il mio parere. Sì, in questo momento parlo della storia della scienza alla scienza. Io voglio sapere quello di Böck. Infatti, io ho detto quello di Böck. Io almeno mi diamo grida di siccome questa è una cosa che si legge spesso ed è importante, mi veniva curiosità, approfittando anch'io come professor Scrivi. Ma io credo che questo sia un modo sbagliato di porre il problema, perché che senso ha dire che sono già elaborati i principi teorici ma poi non sono applicati? Come se i principi teorici fossero elaborati in astratto e poi l'applicazione fosse qualcosa che avviene indipendentemente. Cioè, il mio parere personale è che il problema posto in questi termini sia mal posto. Cioè, bisogna vedere l'elaborazione teorica scientifica antica nella sua globalità, non rispetto a ciò che non è avvenuto. E questo, cioè, secondo me, che, secondo però qui la discussione sarebbe lunga. Questa affermazione generale è anche generica. Io credo che si possa ridimensionarla in questo senso. non ha avuto una applicazione, diciamo, tra virgolette, industriale. Cioè, ma neanche artigianale. Ecco, in questo senso, cioè non c'è stato lo sfruttamento della scoperta. Però la mia domanda si riferiva soltanto se questo ne aveva coscienza, se era d'accordo o no con queste cose. Sì, ma per questo l'ho ripresa, perché avevo curiosità, insomma, perché questa affermazione è molto comune, sì. Ma come forse tu giustamente dici, è anche così generica e fondata. Ja. Wenn keine weiteren, was man auch noch kommt, so. Also, vielleicht können Sie doch noch mal kurz erklären, wir haben vorher schon darüber gesprochen, diese berühmte Formel von Goethe, die Erkenntnis des Erkannten. Also, ist eigentlich doch irgendwie, ich weiß immer, doch halt irgendwie etwas missverständlich formuliert auch und unglücklich formuliert irgendwie von. Man hat dann die Vorstellung, also, oder ich vermute da zunächst mal nicht die Vorstellung, also die Naturwissenschaftler sagen, die können vielleicht wirklich etwas neu erkennen, etwas, was noch niemand erkannt hat, was in der Natur ist. Einstein, er kann also etwas erkennen, was bisher noch niemand erkennt. Die Geisteswissenschaft, die Haltungswissenschaft, die sind dazu, wir haben sie beurteilt oder können sich dabei beruhigen, nur Dinge zu erkennen, die schon erkannt sind. Und ja, also viele haben sich sozusagen an dieses Programm, gehalten. Aber das ist nicht genau die Vorstellung von Böck. Also wir sind vielleicht doch, ja. Das einfach, was er unter Erkenntnis ist, erkannt. Also die Frage ist ja dann auch wieder nicht, irgendwann muss das Erkannte ja zum ersten Mal erkannt worden sein. Mhm. Aber das ist dann nur dann jeweils in Handeln oder so möglich. Und die Wissenschaftler sagen, die werden dazu nur das, noch einmal zu wiederholen, sozusagen ein Erkenntnisvorgang. Das ist eigentlich auch noch eine kleine andere Frage oder Forschung. Sie sprachen mehrfach vom spiralförmigen Fortschritt bei Böck und da habe ich mir auch mal notiert, also der geradlinige Fortschritt und die ewige Wiederkehr des Gleichen, die nicht sich da irgendwie so in einer Spirale spielt. Ist das so eine Formulierung von Böck? Und beziehungsweise lässt sich denn das überhaupt verbinden? Entweder das eine oder das andere? Oder also ist es bei Böck wirklich organisch sozusagen und systematisch miteinander verbunden? Oder steht es doch vielleicht stärker unverbunden nebeneinander, als es in der Form der Beratung und der Forschung erkennen lässt? Um beim letzten zu beginnen, das Bild der Spirale, das heißt zwar dort nicht Spirale, sondern Schraubenlinie, ist ein Bild, was Böck selber gebraucht. Der Gedanke, der dahinter steht, ist der, dass im spekulativen Bereich, in der spekulativen Erkenntnis, es keinen Fortschritt gibt. Da hat man irgendwann im Altertum im Grunde genommen das, was an Prinzipien sozusagen unserer Welt und den, auch unserem Denken zugrunde liegt, bereits durchschaut. Fortschritt gibt es nur im Bereich der Erfahrungswissenschaften. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese beiden Vorstellungen miteinander verbunden? Wenn es nur nach der spekulativen Erkenntnis ginge, würde es sich sozusagen eigentlich nur im Kreis bewegen können. Denn wir kämen nicht über das Altertum und das, was dort beispielsweise im Bereich der spekulativen Philosophie entdeckt worden ist, hinaus. Das Bild ist, dass sozusagen die Schraubenlinie ja die Verbindung des Kreises, der dann Circulus Vitiosus wäre, mit der Vorwärtsbewegung ist. Die Vorwärtsbewegung kommt aber nur zustande, weil wir nun im Gegensatz zur Antike diesen Bereich der Erfahrung in ganz anderer Weise mit in die Wissenschaft einbringen. Und zwar als durchgeistigte Erfahrung, nicht als Beobachtung nur, sondern als Experiment. Das Experiment unterscheidet sich von der reinen Beobachtung dadurch, dass ich die experimentellen Bedingungen selber herstelle. Das heißt, es ist selber ein durchgeistigter Vorgang. Es ist nicht pures Beobachten, nicht reines Rezipieren, sondern ich konstruiere ja selber Wirklichkeit dadurch, dass ich die Experimentanordnung in einer bestimmten Weise herstelle. Und dieser moderne Aspekt von Wissenschaft kommt sozusagen als das Neue hinzu und an der Stelle gibt es auch Fortschritt. Aber der Fortschritt besteht im Grunde genommen immer darin, gewissermaßen die Summe der Erfahrungen, die uns diese experimentelle Tätigkeit verschafft, immer wieder zu beziehen auf das, was an Grundideen vorhanden ist. Böcks Hoffnung ist eben die, dass letztlich alle Erfahrungserkenntnis, aller Zuwachs an Erfahrung, sozusagen dieses spekulative Grundmodell eigentlich nur bestätigt. Das heißt, ich muss sozusagen, wenn ich wieder eine bestimmte Menge von Erfahrung hinzugewonnen habe, muss ich versuchen, das mit meinen spekulativen Grundvorstellungen in Übereinstimmung zu bringen. Ich komme also irgendwo wieder an derselben Stelle an, aber sozusagen eine Etage höher, nämlich in höherem Maße erfahrungsgesättigt. Ich habe sozusagen mehr Erfahrung verarbeitet, aber das heißt nicht, dass ich prinzipiell sozusagen über im Spekulativen über die Antike hinauskäme. Ich komme eigentlich nur im Erfahrungsbereich darüber hinaus. Das ist also seine Konstruktion von Fortschritt im Sinne der Spiralbewegung. Diese Spiralbewegung ist auch die Bewegung letztlich der Forschung, etwa im Bereich der Philologie selber. Denn ich tue ja nichts anderes, als dass ich meine Vorstellung der Idee des Antiken an sich gewissermaßen als Leitvorstellung nehme und nun sehe, in welche Daten mir geliefert werden. Und ich versuche halt, meine Leitvorstellung mit den Daten, die ich historisch, empirisch nun durch Hermeneutik und Kritik mir beschaffe, diese Leitvorstellung zu bestätigen bzw. zu modifizieren, so dass ich das sozusagen nicht hier Spekulation und da irgendwelche blinden Daten stehen, sondern dass beides zusammenkommt. Und je mehr Daten ich neu hinzufinde, desto mehr wird sich auch meine Idee vom Antiken an sich präzisieren, modifizieren. Also auch im wissenschaftlichen Bereich, in der Philologie, vollzieht sich diese Spiralbewegung. Das ist sozusagen eine gedankliche Struktur, die für Böcks Erkenntnismodell insgesamt charakteristisch ist. Zur Erkenntnis des Erkannten. Man muss sehen, dass das, was Böck das Erkannte nennt, nicht nur etwas Theoretisches ist. Für Böck fällt unter das Erkannte der gesamte Bereich des Handelns auf. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil Böck der Meinung ist, dass das Handeln selber ja sozusagen geistiges Element enthält. In dem Augenblick, wo es das nicht enthält und es ein reiner Naturvorgang ist, fällt er sozusagen aus dem Objektbereich der Philologie heraus. Nur dort, wo sich in Handlung eine Idee gewissermaßen niederschlägt. Wenn ich also die Hand hier auf den Tisch lege und das gewissermaßen ein Naturreflex wäre, weil mein Arm irgendwo krank ist, wäre es nicht ein mögliches Objekt der Geschichtsforschung, aber ich könnte es dazu machen, in dem Augenblick, wenn ich vermuten kann, dass dahinter eine Absicht gestanden hat, dass ich sozusagen mit dieser Handlung etwas verwirklichen wollte, was geistig bei mir irgendwo vorhanden war. Das heißt also, Erkennen ist ein so weiter Begriff, dass darunter auch das Handeln subsumiert wird. Und das geht wiederum durch die Gleichsetzung von Erkennen, wird gleichgesetzt mit dem Begriff des Konstruierens, der im deutschen Idealismus ja eine zentrale Rolle gespielt hat. Erkennen hat Konstruktionscharakter. Der Konstruktionsbegriff führt weiter zum Begriff der Produktion und damit wird gleichgesetzt das geschichtliche Handeln, was auch ein Produzieren ist. Das geschichtliche Handeln wird als Schöpferisches gedacht und das ist sozusagen ein Produzieren. Das heißt, zwischen Erkennen und Handeln kriegt man diese Identität über die Begriffe der Konstruktion und der Produktion. Indem Handeln als Produzieren begriffen wird, kommt man sozusagen dann zu der Gleichsetzung, alles Handeln ist in gewisser Form auch ein Erkennen, sprich ein Ausprägen von Geistigem in sinnliche Wirklichkeit. Das muss man auf der Objektseite sehen. Damit ist also die gesamte Geschichte drin, nicht nur etwa die Geschichte, die sich niedergeschlagen hat in Form von Literatur oder Wissenschaft beispielsweise, sondern überall da, wo Menschen Spuren von Geist hinterlassen haben, ist Objekt der Philologie. Auf der Seite des Erkennens ist mit Erkennen eben nicht gemeint reines Reproduzieren, sondern darauf habe ich abgehoben mit dem Begriff der Kritik. Böck sagt, reines Wiedererkennen bedeutet, dass ich ja sozusagen nicht drüber hinauskomme. Das ist reine Reproduktion, das Ganze sozusagen nochmal. Aber er sagt, Erkennen ist es dann, wenn ich ihm einen Platz im eigenen Denken anweise. Das heißt, wenn ich das, was ich wiedererkenne, in Verbindung setze mit dem, was ich selber an Ideen habe. Und das fällt bei Böck unter den Begriff der Kritik. Das ist, muss man wissen, wenn man Böck richtig verstehen will, beim Begriff des Erkennens ist es nicht eine reine Reproduktion, sondern es gehört die Kritik mit hinzu. In der Wissenschaftsgeschichte ist sozusagen dieses Element von Kritik eigentlich rausgefallen, dadurch, dass man die gesamte philologische Tätigkeit nur auf den Begriff der Hermeneutik reduziert hat. Die klassische Theorie enthielt Hermeneutik und Kritik als Beurteilung. Und Burke insistiert darauf, dass erst durch die Kritik eigentlich Erkenntnis zustande kommt. Und wenn man sozusagen die Kritik rauslässt, was ja passiert ist, dadurch, dass sie im 19. Jahrhundert zur Textkritik sozusagen schrumpfte und auf der anderen Seite in die Literaturkritik abwanderte, die dann auch unwissenschaftlich war, dadurch hatte man plötzlich nur noch die Hermeneutik als reines reproduzierendes Erkennen. Bei Burke meint der Begriff des Erkennens Hermeneutik und Kritik. Io volevo ricordare che proprio questa formula della filologia che dovrebbe essere das Erkenntnis des Erkannten non soddisfaceva Villamori e questo mi porta anche in questa formula che così bene ha spiegato il dottor Ostman di un Erkennen che è anche critica e costruzione e vorrei sapere l'apporto di Kreuser a questa così, a questa teoria. E poi mi interessava sapere da dove viene, cosa che ho notato concordemente nelle due relazioni, la classificazione per Gegensätze, mondo antico, mondo moderno, materiale, spirituale, da dove viene Abel, è una mia ignoranza ovviamente. Posso aggiungere a questo così, la mia impressione, cioè che per Beck la filologia è Erkennen des Erkannten in contrapposizione alla wirkliche Wissenschaft ist die Erkenntnis des Nicht-Erkannten. Questo mi pare elementare. Quindi c'è una contrapposizione tra filologia e wirkliche Wissenschaft. Dopodiché, tutte le due questioni sono perfettamente esatte, ma però questo. Haben wir es noch? Sì, bitte. Einige haben eine Frage gestellt, wie das Verhältnis von Böck zum deutschen Idealismus betrifft. Vielleicht könnte man das etwas präziser beschreiben. Wenn Fortschritt, wissenschaftlicher Fortschritt im Sein findet, eigentlich Zuwachs an Erfahrung bedeutet, über das in sich reisen in der immer wieder gleichen Spekulation hinaus, dann ist das doch relativ kantisch gedacht, eigentlich. Für Kant ist wissenschaftliche Erkenntnis zunächst Erfahrungserkenntnis. Während Hegel auf der anderen Seite durchaus spekulativen Fortschritt kennt, ja sogar für eine Voraussetzung des Zu-sich-Kommens des Geistes ansieht. Auf der anderen Seite ist Böck offensichtlich, was den enzyklopädischen Charakter seines Denkens angeht, sehr stark, sagen wir, ähnlich dem, was Hegel als Enzyklopädie entwirft und versucht zu einer gleichen Zeit Ähnliches. Also was hat er nun von Kant, was hat er von Hegel, beziehungsweise in welcher Weise ist er beeinflusst von welchen einzelnen Gedanken des einen oder des anderen, die ja nicht in gleicher Weise deutsche Idealisten sind. Vielleicht dazu. Also Kant würde ich in dem Sinne eigentlich noch nicht dazu rechnen, noch nicht zum deutschen Idealismus. Von Kant hat er eigentlich sehr wenig. Das hängt schon mit Kants Vorstellung von Philologie zusammen. Das ist ein höchst traditioneller und auch zu Kants Zeiten eigentlich schon überholter Philologiebegriff. Das Problem ist letztlich das des deutschen Idealismus, nämlich die Vereinigung von zwei Wesensmerkmalen von Wissenschaft. Das eine ist der Systemgedanke, der so sozusagen als ein Wesensmerkmal angesehen worden ist, wenn man also bei Fichte liest, dass ein Gelehrter, ein Philosoph natürlich sein System haben muss. Fertig, fertiges System. Das andere ist der Gedanke, der dem eigentlich nicht so recht entsprechen kann, nämlich der Begriff des Schöpferischen und des Produktiven. Das ist sozusagen ein Problem, was im deutschen Idealismus selber schon drinsteckt. Wie kann ich sozusagen diese beiden Wesensmerkmale von Wissenschaft eigentlich in Übereinstimmung bringen, die ich beide für unverzichtbar halte, nämlich der systematische Charakter von Wissen und der Charakter von Wissenschaft als einem produktiven, schöpferischen, wenn man also die Ausführungen Humboldts etwa nimmt, Wissenschaft als etwas noch nicht Gefundenes zu betrachten, was also sozusagen auf die Dynamik zielt. Und Böck löst gewissermaßen dieses deutsch-idealistische Problem oder das Problem des deutsch-idealistischen Wissenschaftsbegriffs, indem er gewissermaßen Produktivität auf die Seite der Erfahrung legt und Systemcharakter auf der Seite der Spekulation beibehält. Es bleibt sozusagen ein System vorgegeben, was sich durch das Mehr an Erfahrung gewissermaßen weiter füllt, aber nicht grundsätzlich umgestaltet. Das ist auch seine Grenze zum modernen Wissenschaftsbegriff, der davon ausgeht, dass Wissenschaft im Sinne etwa von Kuhn nun nicht nur kumulativ Zuwachs verzeichnet, sondern dass es Wachstum im Sinne der völligen Umgestaltung ist. Das heißt, dass auch der Systembegriff selber sich eigentlich auflöst, System eher etwas ist, was sozusagen eine Durchgangsstufe darstellt, systematisiert wird zu einem gewissen Zeitpunkt, aber nicht, um damit endgültig das Ergebnis zu haben, sondern als Durchgangsstufe zu weiterem Fortschreiten. Auch das System wird geändert. Wenn man etwa dagegen hält, was Plessner sozusagen als Wesensmerkmal moderner Wissenschaft beschreibt, dann ist das eben was anderes als das, was Böck unter Fortschritt der Wissenschaft versteht. Böck versucht, wie gesagt, das Problem des deutschen Idealismus selber zu lösen. Das gelingt auch in gewissem Maße innerhalb dieses Modells, aber da hat die Wissenschaftsgeschichte natürlich nicht Halt gemacht. Das ist also eigentlich etwas, was im Horizont des deutschen Idealismus verbleibt. Kant spielt eigentlich da direkt keine Rolle, nur insofern er gewissermaßen Standards von Erfahrungswissenschaft definiert, hinter die man nicht mehr zurückfallen kann. Das sieht auch Böck. Nicht? Aber das Problem ist das deutsche Idealismus selber. Aber manchmal, selbst wenn Sie nicht völlig befriedigt sein sollten mit der Antwort, würde ich jetzt darum bitten, dass wir versuchen, die Böck-Diskussion abzuschließen. Falls die Referenten noch ein Wort sagen wollen, forse solo un momento per quanto riguarda la classificazione binaria, e lui effettivamente mette addirittura in colonna da una parte gli antichi e dall'altra i moderni. Devo dire che qui ho delle difficoltà. A primo acchito è chiaro, ci sono delle cose che ricordano Hegel, le varie filosofie della storia che circolavano, i moderni sono più spirituali degli antichi, appunto natura, gli antichi e spirito i moderni, eccetera, eccetera, e quindi maggior libertà ai moderni rispetto agli antichi, eccetera. Quindi richiamano Hegel. Secondo me è difficile rispondere a questa domanda anche perché c'è un problema di ordine più generale relativo all'enciclopedia. Cioè, noi abbiamo l'enciclopedia pubblicata postuma, di lezioni che vanno dal 16, se ricordo bene, al 50 e basta. Non sappiamo, cioè, com'era agli inizi, cioè abbiamo quello che c'è alla fine, non sappiamo com'era agli inizi questa enciclopedia. C'era già tutto, oppure è proseguito per strati, cioè è venuta una stratificazione di... Per cui anche queste coppie binarie c'erano già all'inizio, allora potremmo dare un certo tipo di risposta, se c'erano già nel 16 o nel 17, aveva di fronte certe cose. Se è più tardi la cosa si complica, ecco, era già... La contrapposizione binaria viene dagli Schlegel. Sì, cioè, questo non c'è. Antichi e moderni, la poesia degli antichi, la poesia dei moderni, certo. Però c'è complesso, perché il sistema a spirale di cui ci ha parlato il dottor Hoffman, curiosamente trovo un parallelo nella archeologia strutturalista di Philippe Bruneau. Lui parla di travail en spirale, e infatti quando l'ha detto mi è venuto in mente. Naturalmente Philippe Bruneau pensa ad un lavoro in spirale, per scopi esegetici di archeologia e filologia, non più un'archeologia ancilla filologie, bensì appunto un lavoro a spirale. Però c'è così una problematica che ha dei riflessi giorni nostri. Io ho l'impressione che lui abbia attribuito, Holtzmann abbia attribuito con perfetta legittimità il concetto di spirale che è moderno, cioè contemporaneo nostro, a Böck, che non lo ha. Ma sì, Das Entscheidende ist nur, dass es bei dieser Spirale natürlich darauf ankommt, dass, ob im Falle von Böck man sicher ist, dass die Richtung wirklich eine gerade ist. Das heißt, dass diese Spirale in eine ganz bestimmte Richtung geht. Man kann die Spirale natürlich auch denken als einen Weg, der wer weiß wohin führt, aber jedenfalls nicht geradlinig. Böcks Vorstellung ist schon die, dass es eine Schraubenlinie ist, die, wenn man sozusagen die Windungen gegeneinander hält, zu einer geraden Linie sich entwickelt. Die also sozusagen immer genauer die Objektivität der Antike im Gegensatz zur Subjektivität erkennen lässt. Das ist auch die Grenze. Mit diesem, pardon. No, no, c'è, esiste, volevo soltanto aggiungere una cosa a ciò che il professor Vandruska ha detto precedentemente, cioè rispetto alla Farbenlehre, che naturalmente è un punto critico per questa generazione, la data è 1810, non è vero? Ma la complicazione lì è che Runge intanto ha pubblicato nel 1810 nello stesso tempo una Farbenlehre e che se uno guarda ai documenti precedenti di Goethe, Goethe dipende da Runge, cioè da un pittore, è vero, di Amburgo, credo, no? Che era notissimo a quel tempo lì. E tutta la colorazione, io me ne sono dovuto occupare di questo signor Runge e compagnia per il fatto che questo ancora influisce su Bachofen, cioè c'è tutta una complessa influenza di questa teoria dei colori che esprimono simboli eccetera, è vero, che Goethe condivide con dei contemporanei di cui il più noto è certo Runge e lui Goethe ne è perfettamente cosciente. Il problema quindi si sposta dove diamine Runge, che appartiene ad un cerchio di pittori di questo periodo lì, prende le sue teorie. Su questo io sono completamente ignorante, ma però è qui il problema. Cioè, la Farbenlehre di Goethe ha un'origine estremamente complessa. E nella esperienza contemporanea, non è Winckelmann, non è questa gente qui. Come? Come? Pitagora, pitagorismo, no? No, che sono pittori contemporanei. Insomma. Ma c'è il problema, il motivo religioso anche, il pietistico. Appunto, lì c'è una. C'è un. È un mondo che lei conosce meglio di me, ecco. Dico, non. Ma è.